9 in punto, la versione di Oscar. Buon inizio di settimana, buon lunedì 10 maggio da Oscar Giannino a tutti i nostri ascoltatori. Brevissimamente, per riepilogare i punti dell'accordo raggiunto in tarda nottata a Bruxelles, chiederemo ai nostri ospiti invece di spiegarci tutto ciò che è avvenuto prima, ma per capirci, questo pacchetto straordinario alle cui prime reazioni dei mercati sono positive, quindi sembra dai mercati asiatici e dagli indici sull'apertura delle borse europee che il mercato giudichi positivamente queste misure, è fatto di pezzi diversi, è fatto di un pezzo che riguarda garanzie attraverso il reperimento di fondi dal bilancio della Commissione europea, e si tratta di fino a 60 miliardi per il fondo salva stati, a cui poi si aggiungono per altri 440 miliardi di euro, quindi si arriva così a 500, un fondo che però non è attribuito alla Commissione attraverso il reperimento di denari sui mercati e quindi non diventa automaticamente disponibile per il sostegno a paesi in difficoltà, ma è invece costituito dagli stati membri ed è a quel punto acceso attraverso trattative bilaterali con i paesi che ne hanno bisogno, quindi ha una modalità più lunga, farraginosa, ma è fatto apposta per sottolineare che rimangono i singoli stati membri sia i destinatari dell'aiuto, e questo è chiaro, ma anche i singoli membri contraenti degli accordi bilaterali e dei prestiti bilaterali di sostegno agli aiuti ai paesi in difficoltà. E vedremo a che cosa serve questo meccanismo. Serve naturalmente a confermare la volontà dei tedeschi sul fatto che non ci sono strumenti davvero condivisi e quindi viene salvaguardata la clausola, la cosiddetta no bailout clause, cioè la clausola per la quale non c'è uno strumento automatico che bypassa la volontà dei parlamenti. Quindi tutta questa farraginosità dipende dal fatto che i tedeschi l'hanno spuntata insieme agli olandesi per questi 440 miliardi, che sono il più, come ovvio, dei 500, e in più si aggiunge a questi 500 miliardi altri fino a 250 miliardi di disponibilità aggiuntiva del Fondo Monetario Internazionale, e la parte attraverso cui si è manifestato l'impegno concreto di Mr. Obama, il Presidente degli Stati Uniti, che è molto preoccupato dal fatto che gli europei non capissero che si stava rischiando una nuova enorme, drammatica fase della crisi mondiale, ha premuto più volte telefonando alla Merkel dicendo cari tedeschi, schiodate, perché altrimenti se ne viene giù il teatro mondiale e l'America un pochino si arrabbia, e quindi il Fondo Monetario Internazionale fa la sua parte. Di questi 750 miliardi, in altre parole, il fondo di emergenza sono fino a 60, non troppa roba per essere chiari, che la Commissione reperisce un po' raschiando il fondo del barile delle proprie disponibilità e quelli del fondo monetario, mentre la parte europea fatta col meccanismo bilaterale è molto molto farraginosa, cioè abbiamo visto per la Grecia il meccanismo bilaterale quanto è lungo e quanto è complicato per mettersi in funzione. A tutto questo poi si aggiunge uno strumento straordinario che però non c'è nell'accordo, non c'è nell'accordo perché ovviamente è della BCE. La BCE ha molto insistito, secondo me bene ha fatto, a tutela della propria autonomia e indipendenza dai governi. Si vocifera anche di scambi di opinioni molto tosti tra Trichet, il presidente della BCE, e il presidente della Francia Sarkozy. Perché? Perché la Banca Centrale Europea ha la possibilità di comprare sui mercati secondari, non direttamente dai governi, i titoli di debito pubblico dei paesi in difficoltà. È un'arma estrema perché significa monetizzare il debito dei paesi, e quindi la Banca Centrale Europea non ha voluto che fosse parte dell'accordo questo ipotetico suo strumento, perché è uno strumento di ultima istanza al quale bisogna evitare di fare ricorso il più possibile. Primo, perché fa sembrare la BCE al laccio dei governi, quindi ne minaccia l'autonomia, l'indipendenza, che è un po' il suo grande scudo, ciò che l'ha fatta affermare come credibilità, anche a costo di deludere i politici e tenere i tassi un po' più alti di quello che i politici volevano. Seconda cosa, perché monetizzando il debito è chiaro che è come premere col torchio pensando che questo possa agevolare il problema dei governi che spendono troppo, e quindi è una cosa che bisogna tentare di fare il meno possibile. Però c'è anche questa possibilità come arma di ultima istanza. Mi sembra saggio che non sia prevista questa negli accordi, perché se i mercati dovessero pensare che la BCE è disposta a comprare tutto ciò di cui uno si vuole disfare in tempi in cui per diffidenza la cosa più saggia è comprare solo bond e vendere tutto il resto e vendere euro sul mercato, mercato, vi rendete conto che la BCE non avrebbe avuto poi grandi risorse, per quanto ben patrimonializzata, per comprare tutto quanto. Allora, detto questo, questo è un pacchetto, cerchiamo di capire qual è il retroscena politico, come se davvero sperare che gli indici di apertura sulle borse di stamattina terranno, cioè che il mercato non avrà atteggiamento di motivata, secondo me, lo abbiamo detto più volte, sfiducia con cui ha accompagnato da metà gennaio fino a questo fine settimana i tentativi conati successivi dei governi europei di capire che occorreva davvero cambiare marcia, e se invece terrà questo atteggiamento positivo. Allora, ci aiutano a capirlo Adriana Cerretelli, corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles. Buongiorno e grazie Adriana. Buongiorno. Il professor Marcello De Cecco, che insegna storia della moneta e della finanza alla Scuola Normale Superiore di Pisa. Buongiorno professor De Cecco. Buongiorno. E Tobias Piller, corrispondente della Frankfurter Allgemeine in Italia. Buongiorno Piller. Buongiorno. Allora, comincerei da Adriana Cerretelli. Si è a lungo temuto ieri nella parte finale del pomeriggio e fino a notte tarda che il no, ancora una volta tedesco, sembrava superato, poi a un certo punto si è capito nel tardo pomeriggio e fino a verso mezzanotte che c'era stato un confronto molto teso, perché per la parte relativa alle garanzie bilaterali i tedeschi con gli olandesi hanno detto no, si fa comunque secondo il modello greco, perché altrimenti i nostri vincoli costituzionali non vengono rispettati. Alla fine il giudizio è che è un'intesa alla quale francesi e italiani si uniscono a uno tedesco invalicabile, o è per l'ennesima volta una dimostrazione di come alla fine è solo la linea tedesca che può passare? Intendo la Polonia che ritira proprio ieri la sua domanda di adesione all'euro e che molti intendono come la protesta dell'unico paese europeo che aveva un segno più alla propria economia e che oramai è molto integrata con l'economia tedesca, ci indica come ancora una volta che sono i tedeschi alla fine gli unici a poter dire sì o no a qualunque accordo, o in realtà nel complesso l'impressione è che comunque il pacchetto è tale da far prevalere i paesi che volevano un'Europa politica non solo bilaterale e che alla fine i tedeschi ottengano questo riconoscimento ma non siano più quelli che dettano l'agenda? Perché capirlo di qui è molto difficile, solo chi è stato lì e ha seguito ora per ora può dircelo. No, io trovo che i tedeschi hanno vinto la partita e non potevano non vincerla. Gli altri paesi hanno cercato di tirare la corda dalla loro parte, in particolare ci sono stati degli scontri molto duri tra Francia e Germania, perché giustamente sulla questione delle garanzie la Francia voleva le garanzie, voleva diciamo un laccio molto più largo, mentre i tedeschi hanno detto di no. Ma hanno detto di no soprattutto perché temevano che con delle garanzie diciamo di tipo illimitato da parte degli stati membri ci sarebbe potuta essere un'esplosione dell'indebitamento e al tempo stesso un'inazione da parte dei governi, perché quello che è importante secondo me in questo pacchetto è sicuramente l'entità, ma è il fatto che ci sono degli impegni precisi, delle condizioni vincolanti, cioè voglio dire il modello Grecia per certi versi è esteso all'area euro, con la differenza che oramai tutti hanno capito che la crisi si è internazionalizzata, perché ieri per esempio ci sono stati momenti drammatici con la Spagna si rifiutava nella maniera più assoluta di fare degli sforzi aggiuntivi. Io ieri parlavo con gli spagnoli, loro temono che il governo cada, cioè che Zapatero alla fine si è arreso all'evidenza, non poteva fare altro, ma per loro chiedere aiuti è un trauma nazionale e al tempo stesso per Zapatero imporre l'austerità è, a quanto pare, vista la sua impopolarità, una mossa per molti aspetti virtualmente suicida, perché gli spagnoli continuano a ritenere di non avere una situazione devastata come quella della Grecia. E per certi versi è vero, ma per altri versi sono sotto attacco, insomma, e hanno una situazione obiettivamente anche loro fragile. Quindi io direi che è stato un vertice dove l'euro è sopravvissuto e l'Europa è sopravvissuta, perché a un certo momento, quando sono arrivate le 2 di notte che corrispondevano all'apertura dei mercati di Tokyo e l'accordo non c'era, abbiamo veramente temuto che l'accordo non ci sarebbe stato. Invece 20 minuti dopo è stato annunciato e c'era un clima come quello del vertice di venerdì, ma forse persino peggiore, cioè questa sensazione dell'inadeguatezza della politica di fronte alla crisi dei mercati. E in fondo quella famosa guerra di cui aveva parlato Merkel qualche giorno fa, i governi sono in guerra contro i mercati, dava la sensazione che la guerra ci fosse, ma i governi avessero già perso prima ancora di combatterla. Poi alla fine c'è stato questo, come dire, questo accordo che io credo che per tanti aspetti terrà, perché non può non tenere. E perché altrimenti il rischio di ciò che può avvenire è tale, di tale proporzione, che non è che qualche paese è esposto al rischio perché è debole o perché ha speso troppo, è un po' il meccanismo complessivo che perde credibilità verticalmente, ed è a quel punto una specie di salvi chi può. Cioè, capisco, leggevo i dati adesso dell'export tedesco, più 10,3% esportazioni in marzo, più 23,3% su base annua. Certo, questi sono i dati della Germania, ma poi i paesi diversi, non tutti perché hanno truccato i dati del bilancio, perché hanno taroccato, ma perché c'è chi è più esposto per bilancio di pagamenti più debole, perché dipende dal capitale internazionale più di altri, chi ha troppa domanda interna un po' finanziata in bolla e troppo a debito rispetto ad altri, chi per una ragione, chi per l'altra, sono diversi i paesi dell'Unione Europea che rischiano di essere messi in fila nell'attacco di sfiducia dei mercati. C'è anche un altro particolare che poi riguarda la speculazione, le agenzie di rating eccetera, ci arriveremo più avanti per non mischiare l'ordine di priorità dei problemi, perché la priorità non è tanto quella del mettere le redini alla speculazione, con cui spesso, che è un problema che esiste, ma con cui spesso i governi tendono a mascherare le proprie responsabilità e il fatto di non aver detto chiaramente ai propri elettori che cosa bisogna essere pronti a fare quando c'è una storia del mondo e dei mercati che accelera così rapidamente e instabilmente, chiedendo a quel punto di essere in grado di dire agli elettori: guardate, dobbiamo fare in due giorni quello che vi dicevo fino a ieri che non bisognava fare. Per un politico è sempre duro doverlo ammettere. Professor De Cecco, dal suo punto di vista, per quell'idea di Europa che ha lei, che dovrebbe guardare non solo alla finanza ma all'idea della crescita, di una crescita equilibrata e così via, si può dire che c'è un inizio di consapevolezza di ciò che si è rischiato e si continuerà a rischiare, ma soprattutto sono meccanismi capaci in qualche misura di salvaguardare anche quel riequilibrio tra chi esporta tanto e non vuole fare domanda interna e chi invece non è oggi in condizione di esportare tanto e c'ha un problema di domanda interna, un po' come il problema tra tedeschi e il resto d'Europa? Cioè, c'è un meccanismo di bilanciamento della crescita europea anche più solido, o è semplicemente una cintura obbligata che arriva all'ultimo secondo, secondo lei, per evitare che l'euro salti, e bisogna sperare solo che svolga la sua funzione, ma non per questo ci garantisce una prospettiva un pochino meno a rischio e più solida? Qual è il suo giudizio, professor De Cecco? Ma io credo che lei abbia ragione per quanto riguarda l'immediatezza della, cioè, ultimo salvataggio all'ultimo momento. Cose per soluzioni strutturali, come pure lei si è chiesto adesso, non mi pare che ce ne siano. Il problema rimane esattamente come l'ha posto lei: da una parte c'è un paese che ha un'economia di esportazione dal 1870 e continua a fare quel mestiere, e gli altri che invece importano e si stanno distruggendo industrialmente con il cambio fisso. L'Italia lo ha fatto per salvare il proprio debito pubblico di entrare nell'euro, non ci dimentichiamo. Comunque io credo che noi siamo in situazione di assoluta instabilità, perché ci sono due fatti nuovi: l'instabilità politica dopo le elezioni inglesi e specialmente l'instabilità politica tedesca dopo le elezioni del Rheinland-Westfalen, perché la signora Merkel ha provato a riguadagnare il favore dell'elettorato facendo la cattiva e ha distrutto in questo modo o quasi l'Europa delle monete. Alla fine si è dovuta pure arrendere, ha fatto una pessima figura e ha perso. È da notare che Annelore Kraft non ha parlato mai di questi problemi, ha parlato dei veri problemi della Renania e ha vinto. La signora, come diceva Handelsblatt l'altro giorno, la signora Merkel non è riuscita a mettere il freno a questo simpatico personaggio di Westerwelle, e quindi anche lei ha un fallimento politico clamoroso, nonostante abbia veramente rischiato con il suo comportamento per riguadagnare il favore. Questo non si è capito, che lei aveva perso, i polls erano chiaramente contro di lei due mesi fa, ha cercato di riguadagnare il favore dei mercati facendo la cattiva alla tedesca, e questo non le è servito a niente. Però rimane il fatto che le due più grandi diciamo democrazie dell'Europa, una fuori dell'euro, una dentro all'euro, sono in situazione di instabilità politica. Per quella sconfitta il signor Schröder è stato mandato a casa. Io spero che lo stesso accada alla signora Merkel. Per quanto riguarda invece le misure, quello che diceva lei sui politici e il fatto che non vogliono accettare, è vero, però qui in effetti stiamo riproducendo una cosa che lei, ma nemmeno lei, è troppo vecchio per ricordare, cioè la situazione italiana del 1963 applicata alla Spagna, un paese che arriva alla fine di un grande boom, che arriva alla fine del suo miracolo economico e si ritrova a dover accettare cose pesantissime. Quella volta ci aiutarono a noi gli americani, perché Carli riuscì a fare una cosa alla Carli, però questa volta il povero Zapatero non sapeva a chi rivolgersi, perché non c'era più la situazione degli americani e così via, e quindi gli è stato detto di fare una manovra dell'1% quest'anno di PIL e 2% l'anno prossimo. Naturalmente noi nel 92 ne abbiamo fatto una del 6% di PIL, però l'Italia è un paese un po' diverso dalla Spagna, la Spagna ha molto meno riserve, però il fatto vero è che loro e i portoghesi hanno accettato di farlo, cioè ieri hanno accettato, è passata questa, quindi hanno veramente prevalso, come diceva la Cervetelli prima, la visione tedesca del mondo. D'altronde, come la Germania è un paese diviso, se lei vede la Corte di Giustizia Suprema della Germania, lì c'è un signore che si chiama Udo Di Fabio, è di origine del mio paese, che è il più nazionalista tra i tedeschi. C'è un neonazionalismo tedesco che è cominciato con la riunificazione, è una cosa molto complicata e non siamo in situazione molto favorevole, perché appunto no, avremmo bisogno di unità nel principale paese d'Europa, invece troviamo che la instabilità politica con coalizioni che si sfacciano e si riaggiustano comincia ad aggredire anche loro. Bene, dei rilievi di una certa pesantezza nei confronti del governo della signora Merkel, nei confronti della sconfitta elettorale che gli è venuta nella Nord Rhein-Westfalia, malgrado aver fatto la cattiva, con gli elettori che dicono fai la cattiva, poi alla fine l'accordo passa, quindi che senso ha? Tanto valeva spiegarci forse con grande chiarezza che la Germania deve difendere l'euro mettendo in campo tutto il necessario, invece che tentare di uccidere l'opinione pubblica dicendo no, non avverrà, poi nel frattempo avviene comunque. Il nazionalismo, questa generazione di tedeschi, perché ha amici di 40 anni eccetera, sa che è tutto priva oramai del complesso di colpa di ciò che avvenne nel secolo scorso, per così dire. Tutti i temi che chiediamo a Tobias Piller di trattare, di rispondere con la franchezza con cui siamo soliti ascoltarlo, a replicare a chi accusa la Germania di non essere abbastanza europea. 9:35, 6 secondi, eccoci tornati in studio. Ci siamo interrotti con una bella batteria di domande, la cui risposta ci dà Tobias Piller, corrispondente del Frankfurt Allgemeine dall'Italia, ed sono relativi al comportamento dei tedeschi, al giudizio espresso dagli elettori dell'anno dove si è votato ieri, che ha bocciato Angela Merkel, soprattutto la privata della maggioranza nel Bundesrat. Quindi questo mette il governo della CDU-CSU e dell'FDP in condizioni molto più complicate, ovviamente, di dover contrattare e non poter contare su un'approvazione a tavolino della seconda Camera tedesca. Ora, Tobias Piller, quali le risposte alle considerazioni del professor De Cecco? È un voto che pesa molto ed alcuni giornali italiani hanno titolato vendetta greca sulla Merkel, addirittura pensando a come la contraddizione tra aiuti comunque dati e la linea dell'intransigenza recitata di fronte agli elettori abbia visto gli elettori dire vabbè, però intanto se dici una cosa ne fai un'altra, tanto vale premiare invece chi ci parla dell'economia reale, dei problemi nell'AND, piuttosto che chi ci propone un'immagine internazionale di leadership che poi deve fare i conti con chi la pensa diversamente. Insomma, come vedi tu questo accordo e il peso della Germania, paese leader al suo interno? Certo, sono molte domande, così forse si farà un passo dopo l'altro. Sì. Da un lato certamente trovo molto strano quello che si dice in con la parola tedesca, pure anche nell'italiano, la Schadenfreude italiana, così il gioire sul danno che ha avuto la Merkel su questa sconfitta, perché lei in quel senso ha cercato di essere pragmatica. E se qualcuno in Italia adesso gioisce, forse, va bene, io non ne capisco le ragioni. Non trovo neanche molto gentile dire ai tedeschi o pagate o vi denunciamo come nazionalisti, così, ma lasciamolo con queste battute all'inizio. Certo, la Merkel e il suo partito ha perso in Nordrhein-Westfalen, non solo per la questione dell'euro, ma per tante ragioni fatte a casa. Ma vorrei arrivare subito all'euro. Certo, se adesso è in questione l'euro stesso, lì purtroppo c'è una grande incomunicabilità tra italiani, francesi e altri su un lato, olandesi e tedeschi su un altro. Perché i tedeschi pensano che una moneta deve essere fatta di fiducia e per questo una moneta non può avere fiducia quando diventa uno strumento, un mero strumento di finanziamento di governi che non hanno il coraggio di risparmiare. Semplicemente se può essere sfruttato per furbizie di governatori, certamente non terrà molto a lungo come moneta. E lì, secondo me, abbiamo visto anche un assalto alla stabilità dell'euro da parte di Sarkozy, il presidente della Francia, che ha cercato di mettere in giro tanti centinaia di miliardi di euro di ulteriori spese gestite possibilmente dalla Commissione Europea sotto il suo comando, e poi anche mettere così in questione tutti i meccanismi dell'indipendenza della Banca Centrale Europea, obbligandola di comprare titoli di debito dello Stato. E ricordiamoci che questi meccanismi hanno fatto per esempio della lira una lira debolissima, tipo negli anni 70, quando ha svalutato di 50% in 4-5 anni. E così in quel senso la Merkel si era asserragliata a Berlino con altri ministri e ha detto a un certo punto un no almeno su questi meccanismi, e secondo me almeno su questo ha fatto bene. In Germania certamente c'è grande perplessità. Da un lato così il ministro degli interni, che ha dovuto andarci a Bruxelles per sostituire Schäuble, il ministro delle finanze, che si è ammalato, quel ministro degli interni ha detto vabbè, almeno vogliamo mettere la calma sulla piazza mettendoci insieme tanti soldi. Questo è un messaggio che è arrivato ai tedeschi. Dall'altro, adesso i tedeschi erano già scontenti per la rottura del principio che nessuno doveva pagare per i debiti degli altri che non sapevano come tenerli in ordine, e già dicevano non vogliamo andare su questa strada molto scivolosa, pagare 8 miliardi di euro per la Grecia. Poi dopo pochissimi giorni sono diventati 22, adesso il conto sarebbe di 120 miliardi in pochi giorni. Ma che cosa gli diciamo adesso a quell'elettore tedesco? È solo un meccanismo che poi tiene salvo l'euro alla fine, o è solo un'altra botta di spese e poi ci troviamo punto a capo con un euro sempre più debole? Ecco, io queste ruvide considerazioni di Tobias Pir contavo che lui fosse così concreto, perché ci pongono la questione di fondo, e chiederei ad Adriana Ceratelli e Marcello De Cecco la loro risposta su questo. Quando Tobias Piller, a nome di un giornale importante tedesco e di una voce che opinioni che pesano nella formazione delle opinioni maggioritarie, come si vede nei sondaggi dell'opinione pubblica del paese più forte dell'Unione, ci dice: Guardate che poi, guardiamoci con le palle negli occhi, voi dite che è anti-europeo chi obietta, ma non è forse più anti-europeo chi tenta come Sarkozy di monetizzare il debito, di non dire che invece che con strumenti condivisi bisogna avere la solidità dei conti economici dell'export, della parte produttiva esposta alla concorrenza di ciascun paese come fondamento della fiducia della moneta? Forse bisognerebbe dire che è più anti-europeista Sarkozy e chi la pensa come lui piuttosto che Tedeschi. Pone un problema di fondo Tobias Pillo, cioè pone il problema di fondo del dire fino in fondo che cosa significa essere membri di un'area a moneta condivisa quando i mercati sottostanti non li abbiamo unificati, e allora bisogna avere il fegato di dire bisogna avere i conti pubblici in ordine, ma bisogna avere anche come benchmark, come punto di riferimento, produttività, competitività, export, bilancio di pagamenti tedesca, perché altrimenti non si può pensare di dire è la politica che pensa a darci una mano laddove noi non abbiamo voglia o non siamo stati capaci di risolvere i problemi per avvicinarci a quel tipo di produttività e di efficienza. A questa obiezione, Adriano Cerretelli, la risposta vista da Bruxelles, cioè dallo sforzo terribile, pluriennale di dover mettere insieme pezzi diversi, propensioni diverse e convenienze nazionali anche dei diversi governi ed elettorali diverse, qual è? Ma io innanzitutto sono d'accordo col collega Tedesco, nel senso che sull'analisi che lui fa del rapporto tra Germania e Europa, tra Germania euro e tra euro e tutti i partner, nel senso che la Merkel ha sicuramente sbagliato, secondo me non tanto con la Grecia mettendoci troppo tempo, quanto facendo dubitare della sua volontà politica di sostenere l'euro, parlando di appunto espulsione, negazione di aiuti eccetera. Però è altrettanto vero che mi sembra che la Merkel abbia capito che questa è una crisi sistemica e che quindi abbia fatto la sua parte. Ora, non si può pretendere che i tedeschi, che hanno sempre messo le carte in tavola su che cosa doveva essere l'euro, facciano la loro parte, diano soldi contraddicendo le loro più profonde condizioni, vedano messa a rischio l'indipendenza della Banca Centrale Europea, perché non c'è ombra di dubbio che nel drammatico vertice di venerdì e anche ieri in questa riunione a porte chiuse è successo di tutto, nel senso che il vecchio tentativo francese di politicizzare l'unione economica torna sempre alla carica quando c'è una crisi. Allora, se si guarda tutto questo, io devo dire che se prima la Merkel ha avuto torto perché ha aperto la finestra alla speculazione mostrando la debolezza strutturale dell'euro, e questo secondo me è un peccato mortale che adesso le si ritorce contro, però è altrettanto vero che ha capito e quindi adesso c'è la diga. E il problema è la vecchia contraddizione su cui è nata l'euro, cioè lo scambio tra la Germania che voleva la riunificazione e la Francia che voleva il condominio sul Marco alla sua maniera. Non è passata la linea francese e io dico meno male, perché oggi che vediamo l'euro a rischio ci possiamo rendere conto degli enormi rischi per tutti noi qualora l'euro crollasse. E dico al limite non tanto perché salterebbe una moneta unica, quanto perché salterebbe una politica sana dei conti pubblici, della gestione dello Stato, eccetera, eccetera, che ci ha consentito di avere una moneta forte, cosa che l'Europa, voglio dire l'altra Europa, non ha mai avuto. Allora, interrompo Adriana Cerretelli, e un giudizio che dice ha la responsabilità di aver aperto troppo la porta con i tempi lunghi della speculazione sul capo greco, però in definitiva la Germania ha ragione a richiamarci alle ragioni di fondo, e la politicizzazione dell'Unione e la monetarizzazione dei debiti dei governi è peggio, quindi ma in realtà è più convergente con la durezza di Tobias Pillar di quanto sia in dissenso. 47-28 secondi. Allora, professor De Cecco, il ruvido richiamo di Tobias Pillar alla concreta, arida realtà delle cifre e di questa natura dell'euro, la cui fiducia nasce solo da non fare gli stessi errori che hanno portato molti paesi a capire che l'euro era meglio, ma perché? Perché non era la briglia sciolta alla monetarizzazione del debito pubblico, e perché obbligava in realtà anche coloro che non lo volevano ammettere a dover avere come punto di riferimento nell'efficienza della parte privata dell'economia, cioè della parte preminente, il modello tedesco. Come si risponde a questo? Lei ha detto è nazionalismo preoccupante. È la conferma di quel nazionalismo preoccupante quello che dice Tobias Pillar, secondo lei? Qui la parola nazionalismo non bisogna adoperarla come la adopera Spiller. Io non ho nessuno Schadenfreude, perché non mi diverte affatto quello che sta succedendo in Germania. La signora Merkel ha usato in maniera volgare una cosa molto pesante, come ha detto la Cerretelli giustamente, ha fatto crollare una serie di mercati e poi ha capito, e questo per la Cerretelli va bene, ma quando ha capito, e questo è ancora più triste, quando le ha telefonato il Presidente degli Stati Uniti, fino a quel momento non aveva capito, siamo ancora nel modello in cui c'era l'Unione Sovietica e i tedeschi prendevano gli ordini dagli Stati Uniti. Siamo immaturi, perché anche Sarkozy sta nelle mani di Dio, ha una popolarità bassissima e sta cercando di adoperare i soldi dell'Europa per risalire nelle elezioni francesi che dovrà disputare tra poco. Quindi è una classe politica che ha veramente delle difficoltà molto grandi a capire quali sono le nuove situazioni. Quindi la difficoltà poi della situazione tedesca è una sola: se tutti vogliono le esportazioni, chi importa? Uno. E due, la domanda mondiale chi la fa? La fanno fuori dall'Europa, l'Europa non la fa la domanda mondiale, quindi non è protagonista. Tre, al 150 rispetto al dollaro avevamo perso tutto, compresi i tedeschi che stavano un po' meglio, però mica tanto. E allora che fanno? Io ho letto sul notiziario della più grande banca tedesca che ormai il mercato europeo è vecchio, non funziona più, non esprime più domanda, quindi bisogna che i tedeschi si rivolgano alle zone nuove, alla Cina. Sì, certo, la Cina, il 17%, il resto chi glielo dà? Sì. Glielo diamo noi come domanda alla Germania, non mettiamo il cuore oltre l'ostacolo. Però, dicevo, sono cose molto gravi che stanno succedendo e la classe politica, purtroppo, di tutta l'Europa si dimostra particolarmente insufficiente. E non stiamo parlando ancora dell'Inghilterra, ma credo che lì si verificheranno cose molto sgradevoli dal punto di vista, diciamo, proprio dei mercati. Sì, sono molto d'accordo. Anch'io penso che il fatto che Obama si sia appeso al telefono e abbia fatto la differenza deve fare riflettere, ecco, chi pensa che in Europa non ci sia un problema di adeguatezza della classe politica. Alcuni ascoltatori, poi torniamo da Tobias Spiller. Cominciamo con Giuseppe da Piacenza. Prego, sintetici. Prego, Giuseppe. Pronto, buongiorno. Guardi, io volevo fare un intervento in merito all'intervento del signor Tobias e sono stato molto dispiaciuto perché invece di parlare di cittadini europei, perché o noi vogliamo guardare in avanti e ci diciamo europei, o se no voltiamo gli occhi dietro e allora lì ognuno tira l'acqua al proprio mulino. Mi dispiace che anche nel linguaggio di queste persone non viene fuori la dimensione del futuro dell'Europa, cioè sempre una visione personalizzata, i tedeschi, ma se facciamo i tedeschi faremo gli italiani italiani, i francesi. Allora, quindi Giuseppe pensa che ci sia in questa nella posizione tedesca, adesso non personalizziamo su Tobias Spiller ci aiuta a capire, da grande giornalista che sta in Italia da molti anni, per un grande giornale tedesco, grande autorevolezza come la Faz, il mio giudizio è, ve lo dico fuori dai denti, il miglior giornale europeo, l'ho sempre pensata così, però detto questo ci aiuta a capire, non è che adesso si personalizza su Tobias Spiller, ci aiuta a capire perché questa maniera di vedere è così popolare nell'opinione pubblica tedesca ed è il solido punto di riferimento delle classi dirigenti tedesche, al di là poi della diversità delle opinioni politiche. Poi un altro ascoltatore, sentiamo Romano da Modena, come la pensa Romano? Buongiorno, ma io guardi, io praticamente svolgo la mia professione in Germania, in Baviera, anzi sono metà bavarese, e questo nazionalismo un po' mi dà fastidio sentire dire di nazionalismo tedesco, perché i tedeschi sono divisi quanto noi, cioè tra il sud, tra i bavaresi, i Preussen, che sono quelli prussiani, quelli dell'est, che vengono anche presi in giro come Ossis, cioè quelli dell'est, e quindi dire che i tedeschi siano nazionalisti mi sembra una cosa sbagliata. In più la Germania è in crisi, ricordiamoci che l'Land della Baviera ha speso quasi 16 miliardi di euro per tappare il buco della Adria Bank, quindi c'è anche questo monolito tedesco, non esiste, e il governo stesso è sempre in discussione tra FDP, CSU, il nuovo che emerge della CSU, il barone, adesso non mi ricordo il nome, quindi... Insomma, cioè, lei dice, no, attenti a non semplificare, che, da una parte con nazionalismo e dall'altra pensando alla grande forza, ci sono crepe anche in Germania. Allora, Tobias Piller, torniamo a questo punto che serve a capire meglio. Dice Adriana Cerratelli, ne sono volate di tutte nelle riunioni riservate e alla fine poi la linea della politicizzazione francese che esce sempre fuori, che viene spacciata per errore come l'europeismo, mentre invece è spesso il punto di reazione di una classe politica che ha problemi a casa propria e tenta di politicizzare tutto in Europa, è peggio tutto sommato della concretezza della Merkel. Però la Merkel ha avuto una responsabilità molto pesante, aver aggravato la crisi, ed è stata anche per questo punita. Dice De Cecco, poi alla fine è l'America che fa la differenza. Facciamo qualche altra considerazione su questa posizione tedesca che, come senti, divide e perprime anche gli italiani, non viene vista da tutti spontaneamente come un punto di forza. Che ne pensi? Penso che bisogna certamente non mettere tutte le discussioni in un nodo troppo grande. Così dividiamo un po' le questioni della politica economica e le lasciamo forse per un altro giorno. E quelli della moneta, io vorrei sottolineare che ci sono dei legami tra il funzionamento, quanto funziona bene e quanto è stabile una moneta, e dall'altro quanto è l'inflazione, quanto il deficit, quanto il debito di Stato. Lì ci sono delle cose dove interagiscono questi due punti, e i tedeschi hanno pagato con brutte esperienze nel passato tutti i problemi di inflazione, di debito e così via, e per questo hanno dei principi molto più rigidi su come fare una moneta, e finora questi principi non hanno fatto tanto male. Il problema è che a un certo punto, con questi principi di come fare una moneta stabile, si arriva i nodi della politica pubblica, della finanza pubblica, vengono a pettine, e si capisce che quando un debito non è più sostenibile, quando un deficit è troppo grande, e quando questo è così, bisogna incidere, bisogna prendere un po' delle medicine a mare. E questo certamente i politici non lo vogliono, e vogliono meglio andare avanti come prima. Quello che c'è da fare in Germania, la Germania deve ristrutturarsi, ha un debito, un deficit non sostenibile e così via, tanto più l'Italia. E anche in Italia si sa come deve fare. Ecco, io interrompo Tobia su questo richiamo costante alla serietà e al rigore delle cifre, perché vediamo se in questo balzo dei mercati di oggi se l'Italia ne approfitterà e basta, o se ci sarà un atteggiamento divergente nella diminuzione degli spread attesi che abbiamo sentito da Deborah Rosciani. Io vi do appuntamento alle 12 per Deborah Rosciani con suo Salvadanaio per l'approfondimento di tutti gli aspetti nel risparmio del vostro portafoglio, di quello che succede per effetto di questo accordo di oggi. Ringrazio Della Cerretelli, professor De Cecco, Tobia Spiller, Filippo Reggi in regia, Alessandro Marco Tulli in redazione, Linea Generale Radio, appuntamento a domani. 9 in punto.